può cominciare. Una strada con il cuore aspettando di arrivare. Pazienza fino a quando troverò tutti quei sogni che possiamo realizzare. Oh, riuscendo a chi è più grande di noi, che tutto si può fare. Rialzarsi pur cadendo, ci riuscirò. Raccoglierò questo frutto del mio cuore, penso, so che scoprirò che crescendo piano sì poi capirò se vuoi tenere sempre più di quel che hai.